La notizia è stata una di quelle notizie che ovviamente scuote tantissimo, perché sappiamo Asia Argento l'importanza che ha avuto il suo volto, la sua persona in una campagna fondamentale come quella del MeToo, quindi erano anche palesi, si poteva prevedere cosa questo avrebbe significato nei confronti, insomma, delle reazioni dei mass media, di tanti, nei confronti di questa campagna così importante. Parlando delle reazioni, diciamo che sicuramente questo evento, di cui insomma non sono io la persona deputata a decretare dove sia la verità, ma credo in qualche modo di poter dare una sorta di lettura in chiave di genere di ciò che a cui stiamo assistendo. Sicuramente, già partendo dalle reazioni che questa notizia ha suscitato, alcune cose possiamo puntualizzarle. E noi ricordiamo che comunque ai tempi in cui fu Asia Argento quella a denunciare le molestie subite, praticamente nessuna, molte poche furono le persone, le testate, insomma, dei giornali che le credettero, no? Quindi si disse di lei: ma come mai ha aspettato così tanto a denunciare, ma come mai proprio adesso, ma insomma è una persona che assolutamente vuole fare dei soldi su questa situazione, poi insomma la sua condotta lo sappiamo com'è, figuriamoci se una come lei, insomma ci ricordiamo un po' tutto lo schifo che le era stato buttato addosso. Sicuramente la prima cosa da notare è che tutto questo schifo addosso a Bennett, che appunto l'ha denunciata sua volta, non c'è stato, cioè la maggior parte dei quotidiani mainstream ha preso questa notizia per assolutamente vera e nessuno si è posto la domanda del perché lui abbia chiesto questo risarcimento proprio nel momento in cui lei a sua volta stava denunciando le violenze subite. Insomma, diciamo che la gogna mediatica che lei ha subito in questo senso lui non l'ha subita. C'è da dire che, e anche qua stiamo parlando di sessismo, ha subito, secondo alcuni commenti, un altro tipo di gogna mediatica che è sempre sessista, no? Cioè quella di chi dice: ma quando mai si è visto che un uomo possa essere violentato da una donna? E anche questo è un tema profondamente sessista, nel senso che comunque le violenze, e anche di questo dobbiamo ringraziare comunque la campagna del MeToo, sappiamo che possono comunque succedere anche agli uomini, perché abbiamo visto e abbiamo capito che le violenze hanno a che fare con una dimensione di potere, e quindi nel momento in cui qualcuno ha più potere di qualcun altro, questa violenza può essere messa in atto. C'è un tema che mi preme molto sottolineare. Mi sposterei un attimo da Asia Argento a invece a parlare dell'ultima vittima di femminicidio, che è stata la bresciana Manuela Bailo, di cui abbiamo saputo pochi giorni fa che appunto è stata uccisa dal suo ex amante. Io questa notizia, quando l'ho saputa, mi trovavo in un bar e mentre appunto la radio commentava e diceva che appunto il colpevole di questa uccisione era l'ex amante, la barista quello che ha detto è stato: ecco, però vedi, insomma, sembrava una santarellina e invece aveva un amante. Allora, questo secondo me ci deve fare un po' riflettere sulla questione del bisogno che noi abbiamo di una vittima perfetta perché possa essere creduta, che è, diciamo, la base, il grande problema generale di tutta la fatica che le donne fanno a denunciare. Questo tema della vittima perfetta sicuramente spiega molto della situazione di Asia Argento, che una vittima perfetta non lo è mai stata, neanche quando non si erano mosse queste accuse nei suoi confronti. Il tenore di alcuni commenti, non solo sui social ma anche sui mezzi di comunicazione, sono del tipo appunto: da che pulpito viene la predica, oppure sembra quasi un 1-1 palla al centro. E questa sembra una notizia forse perfetta per così anche negare le caratteristiche e la portata della violenza di genere, anche in un certo senso tentare di minimizzare quella che è la causa femminista. Sì, diciamo che probabilmente anche rispetto a questo c'è un problema alla base, nel senso che comunque Asia Argento è diventata icona di questo movimento quasi un po' in maniera improvvisa, cioè non è una persona che ha fatto un percorso all'interno dei movimenti femministi con un certo tipo di consapevolezza, e però qua è un po' l'altro lato della medaglia, nel senso che tutti quelli che si occupano di femminismo, di violenze, di abusi, di questioni di genere denunciano da anni, da decenni queste situazioni di violenza e di sopruso. La domanda vera è: per quale ragione, per credere alle persone o per portare in luce questa dimensione di violenza che esiste da sempre perché è insita nel nostro sistema patriarcale, abbiamo sempre bisogno di volti noti, di persone famose, e questo è sempre una arma a doppio taglio, perché il volto noto porta luce, però poi dopo allo stesso tempo la può togliere quando non ha fatto comunque un certo tipo di percorso che magari altre persone hanno fatto. Dire che insomma questo metta in discussione la campagna del MeToo mi sembra un'esagerazione, nel senso che la campagna del MeToo è stata una campagna dirompente e credo se ne siano resi conto tutti quanti, perché c'è stato un periodo in cui chiunque più o meno avesse delle amiche femmine, non so, sulla propria bacheca di Facebook, a un certo punto ha visto apparire dei post da parte delle proprie amiche in cui si raccontava, no, con l'hashtag MeToo, qualcosa che comunque era successo e si è vista la portata di questo fenomeno. E sempre legato a questo ci sono state anche tante che, nonostante il MeToo, hanno scritto dei post dicendo: io comunque non racconterò quello che mi è successo, perché secondo voi una dimensione così privata io la rendo pubblica. Ecco, allora questo ci dovrebbe far riflettere su quanto sia difficile e complicato poter denunciare una violenza, e certamente questa continua colpevolizzazione della vittima, che non è mai perfetta, perché qualsiasi cosa abbia fatto, no, che si sia messa una minigonna, che quella sera abbia bevuto, che abbia dato confidenza a qualcuno, che abbia avuto l'ardire di viaggiare da sola o di dire di no a qualcuno, ecco, tutte queste caratteristiche fanno sì che la vittima non sia mai perfetta, che la vittima diventi sempre poi la colpevole, che in un qualche modo ciò che le è successo se l'è cercato. Questo appunto è stato un grande tema, un grande dibattimento di tutto il movimento, e sicuramente la questione di Asia Argento fa discutere molto, ma tutta la campagna e la potenza di questa campagna non credo possa assolutamente essere messa in discussione.